un canto fortemente, con impronta fortemente dottrinaria didascalica. Non è un canto che suona molto. Quando Dante chiede alle muse di fornirgli l'ispirazione, chiede la matera del canto, cioè la voce. Non è un canto che suona molto, perché è un canto in cui è fortissima la logica del contrappasso. Però proprio per questo c'è una cosa forse che si può notare come particolare, ovvero sia che è un canto affidato per buona parte alla voce allegorica della ragione, Virgilio. È un canto che su 130 versi, 73 sono in bocca, messi in bocca a Virgilio, cioè alla ragione. Ed è un canto quindi che celebra le virtù della ragione. A un certo punto Virgilio dice a Dante: questa è l'eziologia di Mantova, e qualunque altra spiegazione, tu che la mia alta tragedia la conosci tutta quanta, non è valida, tutto il resto è menzogna, frode. E sappiamo che stiamo parlando di frodolenza. E con il canto ventesimo si parla di una frodolenza particolare, quella delle persone, cioè che hanno fatto della antiverità il loro mestiere. L'illusionismo dei maghi e l'illusione che danno i bovini, le streghe, cioè tutto ciò che è il contrario della ragione. Ecco perché Virgilio che la fa da padre padrone in questo canto, allegoricamente, anagogicamente, secondo insomma gli aspetti più strutturali e meno crocianamente poetici, Dante fa parlare la testa, la voce di testa, cioè la voce della testa di Virgilio. E guarda caso punisce che cosa? Punisce gli indovini, cioè coloro che vollero antivedere i maghi. Li punisce con una curiosa, quanto orrenda, ma logicissima dal punto di vista strutturale, punizione di contrappasso, cioè scontraffacendoli proprio nella zona del collo e della testa, come se potremmo banalizzare dicendo che questi dannati non ebbero in vita la testa a posto. Ecco, erano un po' strampalati, cioè professavano qualcosa che non poteva avere a che fare per ragioni deontologiche col libero arbitrio. E sappiamo che Dante tiene al libero arbitrio la ragione, canto di Marco Lombardo e Virgilio, quanto all'intelletto d'amore, che è la virtù dei poeti. E infatti questa punizione esemplare della testa torna in altri casi nella commedia, più vicino, sempre in Malebolge, un'altra punita, scontraffatta nel volto. È per esempio Mirra, che non viene punita come lussuriosa, ma come frodolenta nel suo cercare il rapporto col padre. In questo canto sono particolarmente interessanti dal punto di vista della scontraffazione della sembianza corporea, per cui Mandelstam diceva nella conversazione su Dante che i dannati spesso sembrano scherzi anatomici, ma non sono tanto scherzi, c'è tutta una logica razionalissima e tutt'altro che scherzosa. E appunto per recuperare le fila del canto, Manto e Tiresia. Manto viene proprio osservata come colei che invece di vedergli il volto gli si vede questa cascata di capelli scarmigliati da strega, e così, che danno di lei un'immagine, un manto di capelli, per cui possiamo considerare che la parola poetica, avendo il significante a pari livello col significato, consideriamo manto come un assinetto che un significante sinetto che è di quello che è uno degli attributi più importanti di Beatrice quando fa la sua parusia al Purgatorio, cioè che donna vestita di verde oliva e di manto. Quindi il manto è attributo nella mente poetante di Dante di Beatrice, della donna angelicata, della bella verità teologia. Manto con questa cascata di capelli neri e questa pilosa pelle che sta dall'altra parte, questa scontorsione corporea è l'antidonna. In un canto dove la fa da, diciamo, moto propulsore un concetto di privazione, antipoesia, perché i dannati si muovono come le letanie, la terzina al ritmo di Sirventese, quindi un ritmo valdanzoso, mentre le letanie sono un ritmo funebre. Sono privi della parola, piangono e non parlano, quindi la parola, che è la poesia, loro non l'ebbero, e per Dante la poesia è voce, e voce massima della poesia sarà il momento in cui parlerà il collo, testa dell'aguglia imperiale, l'aguglia l'ho detta, questo uccello simbolico, che è l'emblema formato dai beati, del, che formano questo collo, questa testa d'aquila che con il murmure esprimerà la verità della giustizia, e per Dante politica e poesia sono la stessa cosa. Quindi la testa viene citata tante volte nella commedia come luogo di contrappassi benefici o malefici. Salto il palo in frasca perché sennò potrei parlare troppo a lungo. Quindi di Manto abbiamo detto, Tiresia, anche Tiresia non viene tanto indicato per i suoi illusionismi, oscuri vaticini inutili, per quanto la vana verità, non la vana antiverità sia ciò che fa parlare in anti Dante in questo canto, e li fa, sono anti, cioè, stanno girati dalla parte opposta, no? E con la pena. Tiresia è punito per la scontraffazione corporea, cioè cita Dante la fabula in cui Tiresia si trasformò così per divertimento, per illusionismo, di maschio in femmina. Dante è ossessionato dalla scontraffazione dell'imago, le streghe operarono per l'imago, dice, ecco il loro malefizio, perché l'imago umana è sembianza di Dio e Dio è verità. Quindi pensate agli emblemi principali di Beatrice, lo sguardo, il viso, il visus nel senso non solo di volto, ma anche proprio di guardare, l'occhio della verità. Gli indovini non hanno sguardo, cioè stanno girati alla parte opposta, vogliono vedere avanti, invece vanno da una parte e guardano dietro. Quindi è il contrario della beatitudine. Beatrice, il volto, il viso, le guance sorridenti di Beatrice sono qui parodizzate. Dante è sadico, Dante è comico nell'inferno, la commedia è una commedia, quindi c'è del sadismo e dell'irrisione in queste natiche in cui cola il pianto. C'è un'immagine tragica per noi, ma per Dante era un'immagine di irrisione allegorica. Queste guance, queste finte guance che starebbero al posto del viso, ci scolano le lacrime, eccetera. Pensate come in questo canto abbiamo l'immagine iniziale delle lacrime, in cui delle chiappe, no? Nel mezzo, che fungono da scolatoio di queste lacrime inutili, di questi dannati per l'eternità. E nel canto successivo, poi nel 21esimo, queste chiappe saranno invece non mute come nel pianto degli indovini, ma rumorose nel finale comico dei lazzi, dei demoni, dei diavoli. No? I canti successivi sono i famosi canti dei diavoli, quelli dove Dante dà sfogo conseguenziale alla sua irrisione sadico-anale. Ciò ho finito il commento, no, magari diciamo pure che c'è altre teste che Dante colpisce, quelle dei frodolenti in chi si fida, che sono peggiori dei frodolenti in chi non si fida delle malvagie, cioè i due fratelli traditori, Napoleone e Alessandro, mi sembra si chiamino, che in Antenora, confitti nella ghiaccia, cozzano con le teste in un bacio paradossale da cui non si possono distaccare, che li unisce, li incolla il ghiaccio. E Dante, camminando tra queste teste, non teste, cioè sempre l'emblema, la testa della ragione, non sostenute dalle spalle, dal collo, no? Del libero arbitrio, no? I valori fondamentali per Dante li piglia a calci in bocca, specialmente a uno gli tira calci, si chiama bocca, quindi di nuovo la bocca, la testa, il collo, il luogo della verità. Forse ne dico anche un altro, Bertrand de Born, lo sentirete stasera, nel 28esimo, un poeta, poeta che Dante amava perché era un poeta provenzale, ecco, gli dà la punizione peggiore, gli fa tenere la testa staccata a guisa di lanterna dal collo, proprio perché? Perché divise i congiunti. Quindi mai la ragione può essere disgiunta dalla voce poetante. Questo per Dante, e questa è la logica del contrappasso.